Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, sono le 8:18. E allora, sei tornato, siamo tornati tutti, tu sei tornato finalmente anche con un proprietario che ha portato un pareggio nel derby. Cosa vuoi di più? Cosa voglio di più? Ci accontentiamo di un pareggio al 97esimo. Però insomma dai, Cina, grandi fuochi d'artificio, grande spettacolo. E quindi possibilità di nuovi investimenti, che tutto sommato, no? Io ti vedo scettico, ma... No, vediamo adesso, vediamo i primi passi, vediamo. Io intanto ci tengo a dire che la mia impressione è che il Berlusca sarà l'età, tutto quello che vuoi tu, però intanto ha fatto una vendita di quelle che non so quanti altri avrebbero incassato quello che ha incassato lui. Hai visto che è diventato anche ormai vegetariano, pare. Dicono che ci sono gli hamburger al tofu, vai ad Arcore. Io su questo, sai com'è, le lezioni si avvicinano, l'opportunità. Però, magari, cioè, io però mi limito a dire che... ci ha messo il tempo che ci ha messo, però quella botta ai conti, zampata, della Fininvest, la zapata finale l'ha fatta. Cioè, i figli hanno detto occupane tu, e se ne è occupato dal punto di vista dei soldi. Dico, per il resto si vedrà, lo capisco, i tifosi eccetera, però insomma ha recuperato male non è, perché sai com'è, non è che si può vivere di la padula con una battutina che non vuole mancare di rispetto al grande giocatore, per carità, però insomma i livelli in campo poi a volte contano, e quindi servono i danni, per così dire. Allora, oggi devi sapere, tra i tanti santi ne scelgo solo uno per non perdere troppo tempo, ma perché mi ha sempre colpito, è un santo patriottico, cari ascoltatori, anche se lo dici, ma come, un santo del 1100 come fa a essere patriottico? E come? Tant'è che era un vescovo di Milano, lui era un arcidiacono in cattedrale quando il Barbarossa 1162 rade al suolo Milano, perché l'aveva conquistata, e la fa radere al suolo, ma radere al suolo davvero, ci sono i segni ancora, se uno va nella stratigrafia degli archeologica di Milano, la fa radere al suolo. Il diacono diventa subito dopo vescovo, ed è il vescovo che rimette in piedi la città, ma rimette in piedi nelle cronache proprio dal punto di vista civile, costruzioni, ospedali eccetera eccetera. Galdino si chiamava, infatti, Galdino. Il famoso San Galdino. Perché Manzoni utilizza Galdino, frate Galdino, quello della cerca dei questionanti? Perché nella storia resta questo vescovo che rimette in piedi Milano come colui che si occupa dal povero al tribunale, e quindi è una scelta non casuale. Tanto che quando qui c'era Milano, era austriaca, gli austriaci, tutte le volte che veniva ricordato il vescovo San Galdino, gli stava qua nel gozzo e censuravano ogni... infatti, poiché gli austriaci censuravano, a maggior ragione i patrioti avevano la bandiera di San Galdino. E allora ricordiamoci, tu ce l'hai a casa, perché pensa che lui passa. Io lo so che volevi arrivare a questo, perché tu c'hai a casa un'effigie di San Galdino. Io ho un'effigie di San Galdino, perché devi sapere che sono cresciuto in questa cultura molto risorgimentale quando ero giovane. Tutta questa storia di San Galdino era uno dei pochi santi che a noi mazziniani mangiapreti piaceva, per così dire. Perché morirà proprio l'anno della battaglia di Legnano, essendosi dato molto da fare perché i comuni lombardi capissero che dovevano mettersi insieme contro gli imperatori di Germania, e ci sono stati anche santi con quest'aria qui, per così dire. Insomma, capisci. È così, nella storia di Milano c'è anche questo. Però invece poi l'ho visto che questa cosa è dimenticata, cioè tutti si fermano a Fra Galdino della Questua dei Manzoni, e quei pochi che ancora leggono Promessi Sposi, ma nessuno capisce il perché. Manzoni, citando, dandogli quel nome, stava mettendo un dito nell'occhio, per così dire, a Vienna. Ecco, che cosa ricordare delle tante cose avvenute oggi? Beh, la lezione del 1948, 18 aprile, da sempre la storia italiana è quella cosa lì, quando la DC fa capire che governerà per molti decenni perché prende il 48,5% dei voti. Poi che altro dire? I due referendum, uno che illude l'Italia nel 1993, il primo referendum elettorale sul Senato, fece capire che si andava al maggioritario. Nel 1999 un nuovo referendum per l'abolizione della quota proporzionale arriva al 49,6% dei votanti, malgrado si fosse vinto col 91,5% per l'abolizione, però lì si fermerà il processo ed eccoci tornati oggi al proporzionale. Io oggi di tutti quanti do gli auguri solo a Claudio Sabelli Fiaretti, perché mi è sempre stato simpatico nella sua verve ironica e dissacratrice, e a Natascia Stefanenko. Natascia Stefanenko è un'ingegnera mineraria, poi qui in Italia nota perché attrice, perché modella, però mi è sempre sembrata una gran cosa. Devo dire anche che per comunque faccia radio, la morte di Gianni Boncompagni è una cosa, insomma, che da ricordare, perché è stato un maestro vero. Come no. Tra l'altro, Oscar, tu hai lavorato la domenica? Mi hai detto sì, ho lavorato la domenica. Ma c'è ancora questa polemica della domenica lavorata? Visto che al Serravalle Outlet hanno scioperato, poi hanno chiuso quattro negozi su 250, quindi è stato un po' un mezzo fallimento. Però prima Oscar era qui e parlava di Di Maio, ma insomma, perché no, perché Di Maio mi ha molto colpito l'argomento. Si è lanciato, cioè, con questo. Uno può dire: io voglio che vengano pagati di più i festivi rispetto ai contratti. Ma io questo lo capisco. Sono pagati, spero, un pochino di più. Ma io lo capisco. Un pochino, magari non ma quanto mi vorrebbe. Ha colpito Di Maio l'argomento, no, perché queste, lavorare la domenica Rovina le famiglie. Cioè, allora, ma è possibile mai? Cioè, lavorano milioni in Italia, poi centinaia di milioni nel mondo, ma anche in Italia lavorano milioni di persone nei festivi, no? Gli ospedali, il trasporto pubblico, ma quali sono i servizi, gli alberghi, essenziali, i ristoranti, eccetera. Se ci sono servizi privati come pubblici, no? Non solo quelli pubblici essenziali. Milioni di persone lavorano i festivi, ma non è che loro uccidono la famiglia o la trascurano, ma la trascurano la famiglia, la mandano a quel paese perché scelgono i soldi per lavorare la domenica e le feste comandate. Si ruotano le ferie durante l'anno come sacrosanto. Un mucchio di gente, purtroppo, che guadagna poco e si ammazza di lavoro tutta la fine di tutta la settimana, può andare a fare la spesa con la famiglia solo la domenica. O no? Infatti, no, mi sembra un po' una battaglia così di retroguardia, cioè una cosa, un'uscita un po'. Però vabbè, sono quelle cose da. Io gli ho detto, rimane, con tutto il rispetto, o cambi pianeta o scendi sulla Terra, perché non è che milioni di gente che lavorano dove i festivi trascorrono la famiglia, è il contrario, secondo me. Ma insomma, è questo attacco alle liberalizzazioni. Ma malfondato, è un attacco ideologico, come si vede. Sbaglia persino gli argomenti. È un po' la questione della decrescita felice, dai. Ecco, cioè, lavorare meno, stare con la lavorare famiglia. Meno, certo, lavorare meno. Poi Oscar, in Italia siamo molto avanti, molto avanti sul lavorare meno, sì, tutti i disoccupati che ci sono. Sì, vedo la felicità, proprio si staglia con la mietitrice, la trista mietitrice, però, perché quella che genera purtroppo poco reddito pro capite, poco benessere, molta infelicità e molto senso di depressione. In ogni caso, insomma, se volete chiamarci 800 24 00 24, questa è un po' la polemica politica, se volete, del giorno. Ecco, non c'è granché, anche perché giustamente i giornali aprono su una cosa un po' più importante, e cioè quello che succede in Turchia, dove oggi il titolo migliore, secondo me, lo fa l'Unità. Abbiamo un dittatore alle porte. Ma è così. Cioè, l'Europa ha un dittatore alle porte. Così, e trascuriamo così questa cosa. D'altronde, infatti, Erdogan ha subito capito di doverla porre su quell'aspetto e ha detto: sono stati sconfitti i crociati. È stata una delle prime dichiarazioni. Se ne impipa del fatto che senza milioni di schede non timbrate non avrebbe preso quella miserrima maggioranza che ha preso, perché lui si aspettava di vincere per 15 punti e così via. Perché i crociati sarebbero gli osservatori internazionali, gli osservatori occidentali, ovviamente, perché noi ci dobbiamo aspettare più nazionalismo, più antioccidentalismo, più corruzione e più deputati dell'opposizione, giornalisti in carcere. Sottolineo che è anche entrato in Europa a modo suo, come secondo me giustamente detto Marta Ottaviani, perché oggi per esempio sul Messaggero c'è la cartina dei voti ottenuti dai turchi espatriati nei diversi paesi europei, in Germania e in Francia. I turchi che sono lì, in Germania sono milioni, hanno vinto il sì con una percentuale altro che il 51, 63-65%, quindi abbiamo milioni di erdoganisti oramai all'estero, nei nostri paesi europei. Vedi che ci saranno le polemiche sul voto all'estero anche in Turchia, come da noi. vabbè, insomma, sono stati decisivi. Sono stati decisivi, altro che. Per far vincere il sì, con questa. Il sì cosa vuol dire? Cambiamento della Costituzione, il Presidente della Repubblica tutti diventa a lui, anche capo del governo, discrezionale, magistrati, sceglie i ministri, la Corte Suprema. Non c'è più contropotere. Tra l'altro, secondo me, lanciamo anche un appello per quel poco che contiamo, ma facciamolo tutti, colleghi dell'informazione, a favore di Gabriele Del Grande, che oramai da 10 giorni è fermo in Turchia, blogger, regista italiano, fermato dalle autorità turche e non ne sappiamo nulla. Era lì per fare delle interviste dei profughi siriani per un libro, è stato fermato dalla polizia e effettivamente sotto traccia, non si dice granché, la famiglia dice, ma insomma cosa si sta facendo per lui? E anche da noi, anche da parte nostra, insomma, l'appello alle autorità perché si muovano. Io sono sicuro che si stiano muovendo, per carità, in maniera silenziosa, però nel dubbio forse, noi ci dobbiamo unire, perché stava facendo, oltretutto le sue opere sono note, sono secondo me molto molto molto buone, una vita orientata per questa causa di sostegno a chi si sbatte per diritti in paesi, insomma, complicati. Stava facendo il suo lavoro, stava scrivendo un libro e quindi stava raccogliendo testimonianze ed è stato arrestato dalla polizia. Cara Farnesina, non si sa nulla. Occupiamoci di Gabriele Del Grande. Allora, noi ci occupiamo anche di che cosa? Di reddito di inclusione. Questa sigla, questo acronimo REI, forse l'avete visto REI, sui giornali. Che è lo sviluppo del SIA. Che era quello precedente invece del governo precedente. Bisognerà fare anche un libro una volta su questi acronimi. Comunque, sostanzialmente, questa. Allora, no, secondo. Perché tu capisci, io volevo fare una battuta su. Sia REI, cioè capisci che c'è anche un significato. Sia e REI, e vabbè, comunque. Vabbè. Allora. Secondo l'Istat servirebbero 8 miliardi per aiutare le famiglie bisognose, quelle che sono nella soglia più i poveri, ecco, chiamiamoli come con massima dignità. Poveri intesi come povertà assoluta, come cioè povertà 4 assoluta. Milioni e mezzo che stanno nella povertà assoluta, poi c'è la povertà relativa che è un'altra cosa. Quest'anno sarebbero stati messi 2 miliardi, ora i criteri andranno stabiliti di come andranno, al massimo fino a 485 euro alle famiglie più bisognose al mese, 485 euro. Al mese. Di certo c'è chi la vede come una cosa positiva, c'è chi la vede come un rischio di che cosa? Di un nuovo ammortizzatore sociale, un qualcosa su cui magari un po' adagiarsi, potremmo dire così. Bisogna misurare molto i giudizi, perché veramente ogni chiaro, sostenito, io l'ho visto col reddito di cittadinanza di 5 Stelle, questa è la risposta governativa del PD, parliamoci chiaro, no? Più graduale, però appena si entra nel merito, i sostenitori di ogni proposta dicono che non è vero, che non la conosci, quindi io ho imparato a mia spese, c'ho le cicatrici che bisogna riferire sulle cose ufficiali, mi sembra un po' ridicolo. Noi vogliamo parlare con Roberto Rossini, che è il presidente delle ACLI, che è con noi, buongiorno e grazie di essere qui con noi, Rossini. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Salutiamo anche Alessandro De Nicola, economista, presidente di Adam Smith Society. Buongiorno, professor De Nicola, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, Rossini, mi sembra di aver letto una soddisfazione da parte delle ACLI, da parte sua, per questo reddito di inclusione che parte. È così? Beh sì, se dobbiamo giocare al gioco delle sigle, perché viene dal REIS. Che è una proposta che l'Alleanza contro la Povertà, che è un arcipelago di associazioni, organizzazioni, eccetera, sta proponendo fin dal 2013 e giunge con una S di meno, però giunge, diciamo così, a questa versione che tutto sommato è la versione che noi abbiamo nei suoi principi fondamentali. Noi abbiamo spinto, cioè una proposta che avesse due gambe fondamentali, la gamba del contributo economico, che poi abbiamo visto adesso nelle risorse che sono date, arriva per un massimo fino a 485 euro, e la gamba invece dei servizi per l'inclusione, che è quello che a noi stava un pochino più a cuore, perché rappresenta, diciamo così, più che la cura delle conseguenze, la cura del caos. Sì, questi 485 euro massimi, diciamo, moduliamoci sul massimo, dovrebbero essere dati così ad alcune persone, secondo lei, a pioggia, cioè a fondo perduto, come sostentamento, oppure in cambio di qualcosa? Ma sulla legge che è stata approvata, sì, diciamo che il REIS nella sua origine prevede esattamente questo, cioè che in cambio di una serie di obbligatorietà, per esempio della partecipazione a corsi di formazione, l'obbligatorietà di mandare i figli a scuola, avere i nidi, eccetera, eccetera, più oltre ad accettare i lavori eventualmente offerti. Nella legge approvata si parla infatti di piena partecipazione dei beneficiari alla disposizione di questi progetti, di cui si deve far carico evidentemente il comune. Ecco, io su questo, per essere sincero, al di là del fatto che vi suggerisco lo slogan, visto che volete più risorse, perché giustamente dice ci servono molte più risorse per coprire l'intera fascia della povertà, allora lo slogan viene immediato: il REI sia REIS, visto che stiamo usando, le mettete tutte e tre insieme, però date l'idea. Ma al di là di questo, io ho francamente dei dubbi sul fatto, la condizionalità del reddito di inclusione rispetto alle forme di sostegno al reddito attuale, secondo me, leggendo la legge, io lo so, faccio sempre il cacadubbi, come si dice, però a me non è per niente chiara, perché dire che sono i comuni a organizzare la parte condizionale di offerta di formazione oppure dipendere dai centri provinciali del lavoro per avere le offerte di lavoro a cui eventualmente, perché dal testo non mi pare molto chiaro, non si possa rifiutare pena il decadere del reddito di inclusione, ecco, significa chiedere a soggetti che non hanno risorse, non hanno l'esperienza, non sono in grado di farle queste cose. E io, questo non è un'opinione, è un dato di fatto che è così in Italia, tranne le eccezioni, in Lombardia non è così, eccetera, eccetera, ma nel resto d'Italia... I nostri ascoltatori ce lo dimostrano spesso con chiamate, no. Ci sono i centri di formazione, per esempio, allora, non funzionano... Io dico questo, io vedo il rischio, non che non sia contrario a misure con... sono favorevolissimo, è diventato il problema degli incapienti, dei poveri assoluti, dimenticati dai bonus del governo, c'è. Certo, aggiungere cose senza riuscire a capire che cosa viene meno per concentrare magari anche più risorse sui poveri, questo secondo me è il punto interrogativo. Lei crede che sia sbagliato ragionare così? No, assolutamente. Noi in realtà avevamo chiesto 7 miliardi e 100, si figuri, per cui avevamo chiesto più risorse. 7 miliardi e 100 consentirebbe di coprire tutta la platea di questi 4 milioni e mezzo. Questo è il primo ragionamento. Sulla prima parte che diceva lei, cioè rispetto alla condizionalità, agli effetti ci troviamo, credo, anche in una condizione, come dire, abbastanza sperimentale rispetto a questo tema. La legge parla di piena partecipazione, sì. Quindi questo significa che in qualche misura la sussistenza dei requisiti verrà verificata sulla base dell'accettazione dei progetti. Che ricordiamo, sono l'obbligo di mandare i figli a scuola, partecipare a corsi di formazione, esatto. E nel caso di offerte di lavoro uno non le può rifiutare, perché altrimenti allora... Ecco, detto questo, mi permetto anche di dire un'altra cosa, bisogna vedere anche i soggetti con i quali si lavora, nel senso che in alcuni casi non è facilissimo mandare alcune situazioni a lavorare. Vorremmo capire per un attimo dal professor De Nicola se queste condizioni le danno una garanzia che possa essere uno strumento, come dire, che non si trasformi nell'ennesimo finanziamento così assistenziale. No? Come ce ne sono in Italia, professor De Nicola. Beh, sono condizioni, come è stato appena detto, abbastanza vaghe. Nella legge i 2 miliardi non sono tutti per il sostegno alle famiglie, ma in parte sono anche per il Ministero del Lavoro, che dovrebbe organizzare la diffusione della conoscenza del reddito di inclusione, ma non sono previste risorse invece per il resto. E tra l'altro vorrei dire, forse qualcuno di voi ha visto un film molto bello, Quasi Amici, in cui c'è un giovane di colore, un attore molto bravo, Omar Sy, che poi diventa badante di un ricco parigino. Certo. Ma la cosa significativa è vedere questo giovane che la prima volta che va dal ricco parigino va lì per farsi firmare il rifiuto al lavoro. Diciamo, perché rifiuto al lavoro? Io te lo offro il lavoro. No, ma io ho bisogno di 3 rifiuti per poter continuare ad accedere al sussidio di disoccupazione. Questa è la trappola tipica che poi si innesta in situazioni nelle quali vengono dati dei soldi senza alcuna contropartita. Io sono d'accordo che la povertà vada combattuta. Giannino, che è un cultore, si ricorderà che Hayek parlava della grande società che si prende cura dei più poveri. Però è anche detto che non deve diventare una trappola della povertà, Se non ci sono mezzi per sapere se vengono mandati i figli a scuola, se sono condizionali ad offerte di lavoro che in qualche modo uno può mettersi nelle condizioni di non farsi accettare, come ovvio, questa cosa diventa molto più difficile. Quindi io preferisco molto in questi casi quello che viene chiamato il workfare nei paesi anglosassoni, e cioè per le persone che sono abili, quindi non ovviamente perché ha disabilità fisiche, ci mancherebbe, ma lì c'è un bisogno supplementare di assistenza, ma per chiunque sia abile al lavoro c'è uno scambio, tu ricevi qualcosa e dai qualcosa, perché prima di tutto serve per evitare la trappola, nel senso che se ricevi un'offerta di lavoro non è che l'alternativa è stare a casa, e prendere un altro lavoro che quasi sicuramente rispetto ai 480 euro sarà più remunerativo se è un lavoro diciamo full time. In secondo luogo, perché questo dà anche una educazione a chi questa educazione al lavoro non ce l'ha, magari non per colpa sua, come ovvio, ma semplicemente il fatto di rispettare un orario, rendersi utile, imparare qualche cosa, è un valore aggiunto per la società enorme rispetto all'aspettare che qualcuno ti chiami per un'offerta di lavoro. In un periodo di disoccupazione all'11,5% e quasi al 40% per disoccupazione giovanile, campagavallo prima che qualche centro per il lavoro ti offra un lavoro certificato che tu possa dire l'ha rifiutato, e quindi gli togliamo il reddito di inclusione. Quindi la legge, seppur come dire ispirata da buone intenzioni, di cui ha dei punti dolenti, esatto, infatti devo dire la verità, questo punto appena citato da De Nicola è lo stesso punto sul quale mi sono venute le cicatrici, perché quando io sono venuto analizzando il reddito di cittadinanza 5 Stelle, che hai voglia di dire la condizionalità, in Germania la condizionalità è ferrea, perché col quarto pacchetto ARS hanno riformato del tutto l'avviamento al lavoro, cioè la parte pubblica è diventata solo accreditamento di voucher, e il privato, cioè chi ha perso il lavoro e ha bisogno di integrazione al reddito, può spenderlo ai soggetti accreditari pubblici o privati, però lì l'intermediazione tra domanda e offerta funziona davvero, cioè funziona per il 90% dei casi che ritrovano lavoro, da noi no. È bastato dire questo per dire, quindi non è come in Germania, loro hanno iniziato a dirmi, cioè Nino mente. In Italia non si possono fare osservazioni fattuali, perché la mia esperienza è che i politici ti dicono che a quel punto menti, e a quel punto dice fate come volete, allora però chiamatela propaganda, ecco, questo è. Vabbè, insomma, questi sono i dubbi e invece i punti che Rossini ci ha detto positivi per questa, anche se Rossini ci ha confermato volevate di più, volevate quello sforzo da 8 miliardi. Però loro dicono il primo passo almeno 100 miliardi. 800 milioni c'è sicuramente. Staremo a vedere. Noi intanto vi ringraziamo e dobbiamo andare in pubblicità. Ringraziamo Roberto Rossini, presidente delle ACLI, Alessandro De Nicola, economista, avvocato ad The Smith Society, e che dire? Andiamo in pubblicità perché ci sono tanti anche ascoltatori che ci chiedono pareri. Voglio domenica all'outlet. Si è lavorato domenica. Io ho spugliato un campo, per esempio. Ed è vero, da un posso amico. Testimoniare. Sì, l'ho messo anche su Facebook, in Valtidone, da amici. Non so se questo. Un decespugliatore con una certa attitudine professionale. Non devo so ammetterlo. Se questo è considerato lavoro domenicale. Allora, lavoro nei campi, scusa, come vuoi di no, più? No, nel senso che non l'ho fatto per amicizie, con grande amore e con grande affetto. Mi sembravi abbastanza sudato anche nella foto. Molto sudato. Ragazzi, finalmente a 46 anni ho iniziato a lavorare anch'io domenica scorsa. No, ma che le prospettive del sole sono tale che andiamo nei campi. La pubblicità. 24 mattino. Attenti a noi due. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg. A zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo. Una cipolla e un pezzo di pane duro. A cena una minestra scunnita. Questo era il nostro carissimo e vecchissimo ascoltatore. Saggezza della zappa popolare, da 7 kg. Lui l'augurava in realtà a tutti i politici, ma io insomma posso dire che ho applicato. Tu ti sei portato avanti. Mi sono portato avanti applicando alla lettera. E posso, cari ascoltatori, no, ripeto, è tutto verissimo. Tanto è vero che l'amico che ha beneficiato del lavoro pasquale di Alessandro ha mandato un sms dicendo guarda che fai lavorato. Ma scritto, ma detto anche tu hai lavorato, anche tu la domenica. Capito. E non pagato. Ecco, ma scherzo, è pagato con affetto, amore, ospitalità e che non hanno prezzo. No, infatti, non c'è dubbio. No, poi a me fa, scusa, posso dirti una cosa, dai giornali di oggi, sei visto sulla stampa? Sì. L'Inps per l'anno in corso improvvisamente abbatte da 4 a 2 i giorni di congedo facoltativo parentale per i papà. Allora, voglio dire, forse queste sono le cose che rivelano come, capisci, si trascura la famiglia, perché lo Stato promette da una parte e ti leva dall'altra, perché erano 4 i giorni di congedo facoltativo per i papà, capisci, durante l'anno. 2. Allora, io invito i politici a occuparsi di questi passi indietro. 2 per chiunque abbia avuto un figlio. Ecco. Alla prima visita da fare, alla seconda febbre, ti sei giocato per due motivi. 2, 4, sono numeri che danno l'idea di come lo Stato italiano resta ostile a ogni idea di famiglia rispetto a qualunque altro paese europeo e di qualunque tipo. E quelle sono le cose per cui le famiglie in Italia se le possono permettere in sempre meno, sempre più avanti con l'età, perché non c'è il reddito e il patrimonio. Perché lo Stato è, mi dispiace dirlo, nemico in questo caso. Pensavo dicessi l'altro. No, in questo caso non è l'altro. È nemico. 4 giorni mi riduce a 2. Su. Marco da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a voi. Vi dico subito che io voterei Giannino. Cioè, candidati Giannino, candidati ancora. Io No, non posso, non devo ed è giusto così, punto. Va bene, niente, allora fa lo stesso. Voterò qualcun altro, sono costretto. Ma infatti, la politica è la ricerca del minore dei mali. Io sono in fondo, sono il peggiore, quindi non c'è problema. Lo dico con un po' di autoironia, però così faccio contenti tutti. Sono il peggiore, sono io in questo paese. Va bene, io voterei anche il peggiore. Allora, io sono il direttore di un negozio, vendiamo elettronica, quindi la questione è questa, la libertà. La giusta libertà di un consumatore di poter scegliere la domenica come il proprio giorno per spendere i propri soldi, per carità, è sacrosanta. Che faccia così bene, io porto la mia esperienza chiaramente, ma che faccia così bene in generale sia alle aziende che ai dipendenti, oltre a questa questione del servizio, ecco, ho qualche dubbio, nel senso che dal punto di vista dei dipendenti si parla di 18 euro in più a domenica. Come costo per l'azienda, invece è aumentato il costo. Allora, in una realtà metropolitana dove siamo già tutti aperti e via è un discorso, in una realtà più piccola come la stragrande maggioranza delle cittadine eccetera, dove si potrebbe in realtà fare a meno, sì. Io spalmo i costi su 7 giorni, spalmo il personale, quindi anche la questione del servizio al pubblico diminuisce. Perché non è che l'azienda dice vabbè, già ho dei costi in più perché tengo aperta la domenica, la luce eccetera, in più assumo della gente in più perché così spendo di più, e no, perché il fatturato rimane quello, perché la capacità di acquisto della gente non aumenta se tu aumenti i giorni in cui sei aperto, aumenta se lo Stato fosse meno vampiresco, sì. Per cui il discorso qual è? Che i soldi degli italiani sono quelli. I costi sono aumentati, il servizio diminuisce perché di fatto se uno va al supermercato in certi orari vedi che ci sono queste casse automatiche, non ci sono più le cassiere ormai, stanno scomparendo le cassiere. E anche da noi è così, cioè noi abbiamo degli orari dove siamo costretti a coprire... Vabbè, Marco, allora, insomma, ci ha raccontato. È un affresco di sistema, ma infatti i dati confermano quello che dice lei. Non significa un aumento di fatturato uguale per tutti. Né per settore di specializzazione, cioè l'abbigliamento va meglio dei beni di consumo durevoli come i suoi, né per grandi e piccoli centri allo stesso modo. Cioè, infatti per questo io mi limito a dire libertà di scelta, non obbligo, ci mancherebbe altro. C'è Giorgio, sempre da Reggio Emilia, ci ascolta da Reggio Emilia. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi, intanto vi faccio i complimenti. Grazie. Siete forti. Io volevo parlare per i soldi che vengono dati alle persone indigenti, posso capire dagli soldi, sì. Ma i soldi regalati non vogliono andare a nessuno, anche a questa comunità. Tu prendi un tot per sopravvivere, hai le braccia buone, tu vai a fare dei servizi sociali, a pulire le strade che fanno schifo, a pitturare una cancellata di un asilo, portare un handicappato a scuola, portare da mangiare a un anziano. Cioè lei vuole in cambio di qualcosa, vuole vedere un'attività. Perché io passo davanti a un hotel dove ci sono 30-40 extracomunitari, di quelli che arrivano, che chiedono asilo, che costano, mi risulta, 35 euro al giorno. Arrivano davanti, tutti col telefonino avanti e indietro così. Gente sana, braccia buone, ma cosa fanno tutto il giorno lì? Guardi, cioè, adesso nel nuovo progetto del ministro dell'interno Minniti c'è l'idea di velocizzare le pratiche e fargli fare anche lavori socialmente utili, però su base volontaria. Su base volontaria anche. E invece il nostro ascoltatore dice altro, dice, che base volontaria. Sono no? tutti lavori, il nostro ascoltatore no? è più pratico, io la penso un po' come lui, a dire la verità. Cioè, noi facciamo questo esperimento, ripeto, perché sia chiaro l'ascoltatore, io non sono contrario, ripeto, alle misure contro la povertà, anzi, l'errore è stato i bonus dati a chi il reddito e il lavoro ce l'aveva. Ma detto questo, noi dobbiamo sperimentare la capacità, su piccoli numeri, non intanto spartendo con milioni di famiglie, su piccoli numeri, di dire tutta la parte del welfare che non funziona, la concentriamo in una che però devo mettermi in condizioni che funzioni. Mettermi in condizioni che funzioni significa, ti do qualcosa, come dice il nostro ascoltatore, ti propongo da domani stesso, a fianco dell'assegno, di fare questo lavoro socialmente utile. Uno, due, sono in condizioni davvero di proporti corsi di formazione che servono e non che servono a pagare le cooperative dei formatori o a darti posti di lavoro a cui tu puoi non dire di no. Ma in Italia queste tre cose elementari non siamo in grado di farlo. Quindi io credo che alla fine i soldi andranno in un calderone. Certo, allevieranno la povertà assoluta di milioni di persone. Non dico di no, però... C'è Antonella che ci chiama da Parma. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Eccoci. Eccomi. No, io volevo portare la mia piccola esperienza. Io ho un'attività di ristorazione. Sì. E il mio grosso problema è sempre trovare persone disposte a lavorare il venerdì e sabato sera. Ma lei usava i voucher prima? Dunque io usavo i voucher soltanto per una persona che era da me, veniva occasionalmente quando avevo serate veramente piene. Ovviamente abolito i voucher, adesso mi limito a prendere le prenotazioni che posso gestire io con la dipendente che ho. Il resto abolito, perché non posso fare altro. Cioè lei lavora meno perché non c'è più il voucher. Bravissimo. Allegria. È evidente. E purtroppo questa è la situazione in cui per i furbi, i pochi onesti pagano il pegno. Però ci diceva che trova poche persone disposte a lavorare, sì, proprio il sabato, il venerdì e sabato sera. Però sa, almeno Antonella, il patto lì è chiaro, cioè uno che viene da lei dice no, io la domenica non voglio lavorare, il sabato non voglio lavorare. È una scelta libera, poi si assume le conseguenze del fatto di trovare o no un altro posto di lavoro, però è una libertà di dire io non voglio lavorare la domenica. Ma c'è qualcuno che magari invece si riscopre, che poi dipendente dice no, adesso io la domenica non voglio lavorare più? Sì, diciamo che io per mia scelta, lavorando con chi lavora la domenica, noi siamo chiusi, quindi ho tolto già un grosso problema davanti, però il problema l'ho risolto assumendo persone grandi, quindi io adesso mi oriento ad assunzioni di persone dai 45 ai 50 anni. Cioè le dice senza figli piccoli? No, non per i figli tanto, ma proprio io ho sempre assunto anche ragazze giovani come apprendisti, eccetera. Il problema è che poi alla prima occasione ti salutano e vanno. Quando sono in grado di darti indietro qualcosa di quello che hanno imparato in tanto tempo, ti salutano e vanno e tu ti ritrovi lì. C'è una minore fedeltà, una minore fedeltà bravissimo, professionale. Ecco, però bravissimo. E quindi l'unico modo è assumere persone grandi che hanno deciso cosa fare da grandi. E questa è stata la mia soluzione. Ovviamente mi costano molto di più, però ho una fedeltà e un ritorno dell'investimento che faccio sicuramente più garantito. Va bene, Antonella, questa è la sua storia, la ringraziamo per averla condivisa con noi. Andiamo a Roma, da Mario. Buongiorno Roma. Buongiorno. Buongiorno. Mario. Io innanzitutto volevo dire, i centri per l'impiego, gli unici posti di lavoro che hanno trovato da quelli che ci lavorano dentro. Questa è una testimonianza che ci dicono molti, molti che, che hanno avuto a che fare. Io vi dico, da sinistra sono contrario al reddito di inclusione, come si chiama, perché mi sembra un motivo, uno strumento dell'attuale capitalismo finanziario, contraddistinto da monopoli, rendite di posizione, relazioni, per scaricare i costi sociali di un sistema chiuso sullo Stato, e quindi si crea questo reddito di inclusione, cioè nel momento in cui c'è l'eliminazione del ceto medio, nel momento in cui l'accesso a tanti mercati è impedito da grossi monopoli, delle multinazionali soprattutto, che cosa facciamo? Ci inventiamo questo reddito di inclusione così la gente non rompe le scatole e il sistema può andare avanti. E questo mi sembra sinceramente uno strumento del capitalismo che non mi piace. Io ho letto una frase che mi è piaciuta molto, diceva troppo capitalismo è quando ci sono troppi pochi capitalisti, e mi sembra che questa è la strada verso la quale andiamo, e il reddito di inclusione mi sembra uno strumento verso tale direzione. Mario, grazie, così diamo spazio a tutti. Guarda quanti ascoltatori, anche al VAR, analisi, perché unisce l'anticapitalismo con la critica ai pochi capitalisti. No, ma è infatti suggestiva analisi, e oltretutto lo strumento attraverso cui vogliono tenere buoni chi sta male, invece di portare chi sta male a dire prendete qualche misura un po' più, diciamo, energica. Non voglio attribuire intenzioni diverse al nostro ascoltatore, però suggestiva analisi. C'è Alvaro da Frosinone, buongiorno. Pronto? Sì. Alvaro. Buongiorno. No, io mi riallaccio un attimo al discorso della signora Antonella sui voucher. Cioè, una volta che li hanno aboliti e hanno lasciato, penso, migliaia di persone col sedere per terra, che cosa stanno combinando per colmare il vuoto legislativo? Alvaro, hanno promesso che facciano un intervento, nessuno ha capito ancora, vedremo. Di sicuro il contratto a chiamata intermittenza non copre lo stesso tipo di misure e costa 25 euro almeno lorde, non 10, loro lo sanno, vedremo, aspettiamo il governo. Certo, uno si aspettava l'intervento immediato, come avevano promesso, ma come ha visto il governo ha un po' di difficoltà, ci ha messo un bel po' per fare il DEF e come vede ancora adesso il ministro Padoan si becca bei siluri dal PD. Quindi aspettiamo, vediamo, purtroppo nel nostro mestiere è documentare che molti in alcuni settori hanno i problemi che lei ci dice. In ogni caso staremo a vedere. Intanto Oscar mi scrive sempre, mio amico, che anche tu sei benvenuto, pare che ci sia un decespugliatore. Esatto, infatti pronto per te. Anzi, io adesso ti scriverò al tuo amico che magari forse un posto fisso, vediamo se può garantire. No, perché non si sa mai, quindi non si sa mai. meglio portarsi avanti. Signori, niente, ci fermiamo per la puntata di oggi. Vogliamo ringraziare Lorenzo Nespoli in redazione, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia. E garantirvi che li porteremo tutti a lavorare nei campi. Li porteremo tutti a lavorare nei campi. Domani è il giorno della remontata. No. Domani è Pesach, domani è la Pasqua ebraica, sì. Che ne parleremo domani, perché è una festa che a me piace molto per il ruolo dei bambini, perché tutta la sera si spiega ai bambini la storia e queste cose qua sono cose che danno l'idea perché si durano nei secoli. Ma insomma, domani scopriremo. Intanto un abbraccio a tutti voi, a domani. La zappa non basta più, la mazza da 10 kg e spaccare la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare.